questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Pierluigi Pardo che sta tikitakando già nella redazione di Mediaset, ciao. Ciao, puntatona, sia stasera che adesso, qualità. Però io ho tre domande per te. C'è un po' di traffico nell'anima, non ho capito chi è. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti e poi di soprattutto perché? Soprattutto perché? Perché se non batti il Catania quando vinci? No, questa canzone mi ricorda il 95, la partenza per Erasmus. L'Erasmus, dove l'hai fatto? A Londra, Greenwich, che poi sarebbe Greenwich. Sì, però lì dicono Greenwich, quindi non è colpa mia. E, sì, tra l'altro un clamoroso colpo di fulmine una settimana prima di partire per l'Erasmus, un classico della tradizione, no? Un grande classico della rotina. Beh, è chiaro, la legge di Marti, no? Stai partendo e siete fuori di una. Salutiamo Valeria che adesso vive a Londra. Vabbè, non vuoi rispondere. Chi, no, prende, chi l'Inter, prende l'Inter, dove chi mi prende porti l'Inter? E di soprattutto perché? Perché? Ma soprattutto chi farà il mercato dell'Inter nelle prossime sessioni? Perché la mattinata di oggi ha detto delle cose da questo punto di vista fra l'inquietante e il molto inquietante per chi voleva. Cosa ha detto? Che insomma sembrerebbe confermata fino a questo momento la dirigenza. Insomma, non mi pare che ci siano in questo momento delle rivoluzioni in atto. È vero pure che magari Toir sta prendendo nota e poi magari fra 10 giorni cambia tutto. Adesso mancano 6 giorni alla fine del mercato, sì. Non è che puoi cambiare direttore generale adesso, Non puoi neanche cambiare presidente. Toir, Pardo l'ha citato questa mattina, riunione sul mercato, su massimi sistemi di marketing eccetera. Vabbè, Toir, are you planning some changes in the management? No, the next 4-1 week, I think it's most important focus work on Inter. You will meet Mr. Agnelli in these days? I cannot say that. Thank you. Senti, ma soprattutto perché l'Inter gioca così male? Beh, l'Inter è in una fase anche lì, Mazzarri ieri ha detto una frase che poi sarà subito usata contro di lui, no? Sì. Cioè ha detto che non c'era un gran clima. Ha detto la verità. Certo, è vero. Poi chiaramente nella situazione di Mazzarri in questo momento, con una vittoria in 9 partite, 10 partite, insomma è difficile chiaramente lamentarsi di qualcosa che non sia quello che fa la squadra, no? Bisognerebbe fare mea culpa, e basta. Però la verità è che l'Inter ieri ha affrontato la partita in un clima di scetticismo, con pochissima autostima, con valori tecnici molto bassi. E infatti, come mi pare che era qualche giorno fa con proprio insieme che dicevo che non era facile, c'era una partita che se si fosse sbloccata probabilmente sarebbe finita tanto a poco, ma che in questo momento l'Inter fa fatica a sbloccare, quindi la verità è che in questo momento l'Inter non se la porta da casa con nessuno, non se la porta da casa. E paradossalmente San Siro può diventare addirittura un problema. Beh, ma è abbastanza normale nel mondo dello sport. Quando sei in crisi è meglio giocare in trasferta. Quando hai il pubblico, la gente tua scontenta, è meglio giocare in trasferta perché hai meno pressione. Questo anche questo è un grande classico della legge di Murphy di qui sopra. Io avrei molte altre domande per te, te le farò, le faccio anche agli ascoltatori. Naturalmente 800 24 00 24, numero verde. Ad esempio, io sono convinto che il Milan, la partita di ieri a Cagliari, se ci fosse stato in panchina Allegri non l'avrebbe vinta. È chiaro che non avremo mai la controprova, però sono convinto di questo. Però magari con l'Udinese in Coppa vinceva. Non lo so. Però quella di ieri, secondo me non l'avrebbe vinta. Beh, quella di ieri assomiglia a una svolta, se vuoi anche una svolta un po' fortunata, no? Molto fortunata, comunque, non un po'. Ce ne fu una clamorosa, adesso facciamo venire la lacrimuccia ai tifosi dell'Inter, quella di Kiev nel girone di Champions League nell'angolo del triplete, con l'Inter che perdeva 1-0, fece due gol in 5 minuti, alla fine cambiò il corso degli eventi, poi si qualificò alla partita successiva con Rubin Kazan. Qualche volta hai bisogno di play the unexpected, no? Qualche volta hai bisogno che la vita ti sorprenda, che ti lanci un messaggio di forza e di culo improvviso. Poi il culo del calcio non è che esiste in assoluto, no? Nel senso che comunque alla fine il Milan quei due gol l'ha fatti e se l'è meritati, però insomma, diciamo che l'imponderabile o quantomeno il sorprendente può fare molto bene a una squadra che sta lavorando anche lei per recuperare un po' di condizione psicologica, quindi io penso che questa possa essere la svolta, fermo restando che i problemi ci sono e che all'89esimo il Milan era sotto 1-0. Sì, e poi a me intriga il disegno che si sta profilando, cioè quello dei due mediani e Siena e De Jong davanti alla difesa con Montolivo magari avanzato a fare da raccordo e con Kakà da una parte, Onda dall'altra, davanti Balotelli. Balotelli che peraltro la prossima partita contro il Torino non c'è. A proposito, stasera hai Ventura Tiki-Taka? Ho Ventura e Pazzini, sì. Ventura più Pazzini. Forse anche altri. C'è Bobo che chiede di dare un bacio a Ventura da parte sua, non so se vuoi farlo o fai, se non vuoi farlo io te l'ho detto, mi mando un sms, io te lo giro. Va bene, ma se lo merita magari una virile stretta di mano e tanti virile stretta di mano forse è meglio, ecco, ma ognuno fa, però insomma, voglio dire, io mi terrei lì, presenterò come si dice. Io penso che stia facendo veramente qualcosa di eccezionale, sotto traccia. Sì, poi se quel rigore invece che al Toro lo danno a un'altra Inter Juventus Napoli, brava, viene fuori un casino che lo sai anche tu. Allora, preparati perché tanto è arrivato l'ospite che stavamo aspettando. Dopo il traffico faccio a te e al menzionato ospite di qui sopra, anzi lo dico subito, Andrea Sorrentino in Via di Repubblica. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Andrea, preparatevi voi che siete twitteristi, vi faccio twittare subito dopo il traffico. Se senti tipo le porte chiuse quando giochi in casa, i ragazzi sono ancora più contratti. Io cerco di dare tutto quello che si può dare di positivo ai giocatori, dico solo per quello. Tutti convocati. Wrong with sounds today that never really captured how I feel. Ormai il mondo parla in 140 caratteri, anzi voglio dirlo anche agli ascoltatori, chiederlo anche agli ascoltatori, chiamate 800 24 00 24 e fate domande da 140 caratteri, va bene? Allora, prima un tweet ad Andrea Sorrentino, 140 caratteri per il momento dell'Inter. Mi servirebbero 1400, comunque ce la caviamo con è tutto da rifare, solo una rivoluzione ci salverà. Addirittura? Ma senz'altro, solo una rivoluzione ci salverà. Vabbè. Solo una rivoluzione, non un'armata per fortuna, ma morbida, quasi. Con i garofani nei cannoni e nei fucili, però sì. Bisogna cambiare tutto. Ce l'ho anch'io, Ce l'hai anche tu? Sì. Dai, vai. Crisi tecnica, crisi societaria, pochi soldi, a parte questo tutto bene. Hashtag Inter. Fammi anche un tweet sul rigore a favore del Torino, visto che hai Ventura stasera Tiki-Taka. Il rigore non c'era, appunto. Invece Sorrentino, fammi un tweet sull'arbitraggio di Fiorentina-Genoa, la partita più pazza del mondo. Un tweet potrebbe essere... arbitro occhiali, come si diceva una volta negli stadi degli anni 60 e 70, ma ne servirebbero due o tre paglia. Sì. Però devo dire che poi certi arbitri non sono neanche fortunati, perché i giocatori fanno di tutto per ingannarli. Sì. Poi, ieri ci sono stati degli episodi un po' strani. Sì, a condizione poi si è già scatenata sono già scatenate le manie di persecuzione dei tifosi, manie di persecuzione che non hanno colore, in questo caso quelle della Fiorentina, perché dicono l'anno scorso toccava al Milan, quest'anno tocca al Napoli, perché hanno deciso così e a noi quando ci tocca. Comunque è stata la domenica dei twitteristi questa. Sì. Senti qua. Balotelli trova il Sendo fa risposta già in maniera, voglio dire, completa. Dobbiamo comunque pensare di, non dico aiutare, ma capire forse, e io sono convinto che con l'aiuto di Clarence, con la volontà da parte di tutti, possiamo far tirare fuori il meglio di questo ragazzo, che secondo me è un po' vincolato e legato alle sue emozioni, quindi ha reazioni sempre un po' così, ma ha un profondo buono. Tutti uniti per Balotelli. Prandelli, che avete sentito, ha parlato stamattina insieme a Seedorf, tutti per lui, dobbiamo volergli bene. Intanto, sempre da Cagliari, arriva il tweet di Nainggolan, che ha litigato con i tifosi del Milan all'aeroporto. Arrivi a Cagliari e fanno i fenomeni, 20 coglioncelli del Milan che hanno vinto a Cagliari, in 20 fanno i fenomeni con noi che eravamo in 3. Questo il tweet di Nainggolan. Ma c'è un altro che ha twittato che era importante moralmente di tirar fuori proprio una vittoria in questa maniera. Direi è chiaro che visto anche il primo tempo dovevamo anche fare almeno un gol, poi vai sotto e lì è venuto fuori, direi, lo spirito di una squadra che voleva la vittoria, e questo spirito è la base di tutto, e quindi sono molto felice per la squadra, proprio per i ragazzi. Fuori. Sì, perché Briatore ha twittato all'inizio, prima della partita, il Milan 4-2-3-1 è veramente incomprensibile. Sidor, sei fuori, ha twittato Briatore. Poi dopo la partita, anche se non mi è piaciuto, missione compiuta, Sidor torna indietro. Sì, certo. Poi ha scritto missione compiuta, allora gli hanno detto, ma non eri della Juve, non della Juve, ma amici al Milan. Vabbè. Perché poi è finita, è finita, perché c'è sempre uno che la vuole cotta, quell'altra la vuole cruda, e sì. Andrea avrebbe ragione, Andrea Sorrentino, meglio fare dopo la partita i tweet, però quelli prima sono più divertenti. Ah beh, certo, perché poi rischia solo chi fa i pronostici e non chi non li fa. Però insomma, vabbè, è anche tutta pubblicità per Briatore, che è una trasmissione in atto, no? Certo. Io non guardo molto, ma credo che sia in onda in questo periodo. Quindi tu cosa guardi, perché Sorrentino? Solo Tiki-Taka. Bravissimo. Ragazzi, non mi deludi mai. Adesso faccio sentire Mughini, Ti ricordi Mughini, Piero? Sì. Gianluigi, ti licenzio. Gianluigi, ti licenzio. Allora, c'era un altro, c'è anche un portiere, mi pare. No, sono certo, un portiere che ha twittato. Il Greco fino in fondo. In area di rigore, calcio di rigore. Non ha doppio l'arbitro Mazzoleni. Episodio dubbio, anzi molto più che dubbio, molto negativo, però insomma ci sta, e bisogna guardare avanti, e avanti vuol dire comunque che abbiamo fatto una buona gara. Il portiere che ha twittato non era in campo ma davanti alla TV è Pepe Reina, portiere del Napoli. Ma che cazzo di rigore è questo? Non ha tutti i torti, Pierluigi. No, io per i portieri, sì. Io ero in telecronaca e Andrea, fa il bravo, mi provochi. Poi te ne faccio sentire un altro. No, te lo faccio. Dopo te lo sei meritato, te lo faccio sentire. Portiere dell'Atalanta, ad esempio. No, adesso non tirare indietro la gamba. Ho la mano dopo che hai lanciato il sasso. Dopo te lo becchi, è colpa tua. Dicevi, Fardo? No, che io ero in telecronaca con Zeppino Nela. Lui ha detto che assolutamente non era rigore. Io gli sono andato abbastanza dietro. Adesso ho incontrato Cesari, che mi ha detto che invece è rigore. È rigore. Ma dove? No, sai perché? Perché dice che praticamente il difensore, me l'ha spiegato, il difensore il pallone lo tocca, ma non lo toglie, siccome lo sfiora e basta, non lo toglie dalla disponibilità di Torosidis, secondo Cesari, stasera ne parleremo di questo e di altre cose. E quindi non lo toglie dalla disponibilità di Torosidis, e quindi a quel punto poi quando c'è il contatto è rigore. No, ma questo è un discorso che io posso, perché dobbiamo capire che ormai la logica è col fatto che le strategie difensive vanno sempre più perfezionando nel mondo a tutti i livelli. La FIFA cosa deve fare per garantire un minimo di spettacolo? Deve facilitare il più possibile i gol. E come si fa a facilitarli? Rendendo ormai di fatto inutile il fuorigioco, cioè che tra poco verrà abolito del tutto, e ampliando la casistica dei falli da rigore, come in questo caso la disponibilità del pallone. Cioè, se uno prende il pallone, poi basta, il calcio è sempre stato quello. Invece andiamo verso una... Dimmi. No, posso dire comunque sì. Questo episodio per me rimane non rigore. Detto questo, io stavo facendo la partita, chi l'ha vista lo sa, insomma, sì. Era un rigore sul 2-1 di una partita che sembrava abbastanza chiusa, nel senso che il senso della partita andava in una direzione molto, no, molto, molto precisa, quindi è diverso da una situazione che cambia un risultato al 90. No, ma un'ottima Roma, questo non toglie. Perché altrimenti farei torto a quello che stavo dicendo, che stavamo vedendo in telecronaca, cioè era un momento di partita, poi perché dai, nel calcio c'è sempre l'imponderabile, però era un momento di partita nel quale veramente la Roma era padrona del campo, il 3-1 era nell'aria da un momento all'altro, questo credo che sia indiscutibile. Sì, questo è indiscutibile. Tu ti ricordi, Andrea Sorrentino, facciamo outing dove ci siamo conosciuti io e te al Giro d'Italia? Sì, tanti anni fa, ai tempi di Pantani ancora, pensa un po'. Sì, o di Coppi, non c'era Coppi, Merckx forse sì. No, però più che userei una, a ragione Pardo, userei una metafora ciclistica, no? Cioè la vittoria di tappa nettamente alla Roma, vittoria da grande passista questa della Roma, maglia rosa della Juventus che secondo me rimane totalmente fuori discussione, fuori gioco, già assegnata. Nonostante giorni non brillanti a Roma, con Conte che è sceso nel mutismo, però le cose più interessanti appunto a centrogruppo, cioè il Napoli che, la Fiorentina che dopo la partita più pazza del mondo non riesce ad accorciare sul Napoli, l'Inter che si impantana, il Milan che trova un qualche secondo di abbuono in modo fortunato, mi pare di poterla leggere così, no? No, dobbiamo cessare i motivi di interesse di questo campionato proprio nel mischione alle spalle delle prime due, perché è lì che possiamo trovare qualche palpito. Adesso siamo a livelli di campionato scozzese di qualche anno fa, c'è l'Old Firm che dice. Beh, questa settimana, Andre, perché considera che fino a poche ore fa cercavamo un motivo di interesse dopo la Juve, cioè la lotta sembrava per il secondo posto e probabilmente potrebbe essere falso quello che è vero adesso o viceversa, insomma. Insomma, questa giornata è stata abbastanza dirompente, una giornata nella quale soltanto la Roma ha vinto delle grandi e cambia un po' la percezione, perché insomma, fino a qualche ora fa parlavamo, giustamente lo facevo anch'io, di campionato morto e semmai di lotta per il secondo posto fra Roma e Napoli. Adesso parliamo di lotta per il terzo posto, insomma il calcio è materia liquida. No, io penso che la lotta per i primi due posti sia ancora apertissima, anche per effetto degli impegni infrasettimanali di Roma e Juventus nelle prossime settimane, perché ad esempio la Roma potrebbe rischiare un micidiale triplo derby in una settimana con la Lazio. Questo sarebbe da evitare in una maniera più totale. La Juventus ha un incrocio pericoloso tra quando ricomincia l'Europa League e poi subito dopo avrà il Milan. Insomma, quelle sono settimane in cui il campionato potrebbe riaccendersi di colpo o rispegnersi di colpo. Quindi aspetterei il mese di febbraio per ulteriori valutazioni, a cominciare da domenica prossima, che c'è questo Juve-Inter, secondo me sbilanciatissimo nel pronostico, però è sempre Juventus-Inter, vedremo calendario, anche che mercato sarà adesso. Io ti dico, calendario favorevole alla Juventus, molto più difficile in questo momento una partita in casa con il Parma, con Cassano indiavolato e già caricato questa mattina da Ghirardi, la Roma l'ha presa in giro, ha trattato male, penso sia molto più difficile quella partita di quella interna con l'Inter per la Juventus. Però questo è dedicato ad Andrea Sorrentino che se l'è cercata. Altro tweet. Buona domenica Massimo Mauro, ciao Massimo. Ciao Ilaria, buonasera. Come stai? Io sto bene, tu? Bene, bene, grazie. Anche se molto bene. Vissuto settimane, devo dire, migliori, ma anche molto peggiori, devo dirti. Vorrei tranquillizzare tutti gli amici, giornalisti e non, che si ostinano a consigliarmi di rivolgere all'avvocato Bernardini De Pace. Non ho bisogno di alcun avvocato matrimonialista, se tra 20 anni me ne servisse uno mi affiderei ad un legale di mia piena fiducia e stima. Spero di essere stata chiara con tutti gli amici, tra virgolette un bacio a quelli veri. Aelina Seledova, te lo meritavi Andrea. Ma è giusto, dai. Sì. Ma è anche bello che accadano certe cose, perché è il segno che la vita va avanti, che la vita produce passione, amore, interesse, delusioni, illusioni, è bellissimo, è la ronda della vita, no? C'è un famoso film Biofuels degli anni 50 ispirato a Schnitzler, l'amore è una cosa, è una girandola, è una giostra che gira continuamente, a volte c'è chi sta sopra, a volte c'è chi sta sotto, poi si ripassano i ruoli, è meraviglioso. Sì, resto convinto, hai ragione, ma resto dell'idea che se ognuno poi se li fa privati suoi è meglio. Ma adesso però scusa, questa non è i gatti Mantanara, No, ma non è che è evidente, questo è chiaro, abbiamo ammesso che sia vero, perché io non me ne frega niente. Sì. Cioè, un conto, appunto, io sono d'accordissimo con te, cioè secondo me un conto è la curiosità morbosa che ha scatenato quella coppia lì, ripeto, assolutamente io non giudico nessuno, quindi per me anche Icardi e Vandanara hanno fatto, se la sentivano di fare quei tweet lì, e vabbè, certo, poi ci sono i figli, insomma, risponderanno alla loro coscienza, ma voglio dire, io non me la sento di giudicare. E per quanto riguarda invece questa situazione qui, assolutamente, questa è una roba che è venuta fuori. Amen. Quale? Di cosa parli? Non ho capito. No, parla di quella di Buffon, cioè non, di giustamente no, non... del gossip di una presunta relazione, non lo so, fra Buffon e Jared Amico, mi pare che insomma. No, poi sono casi molto diversi, perché io non mi sento veramente di imputare nulla in questo caso ai protagonisti, non mi pare che abbiano fatto niente per eventualmente stimolare il guaierismo o la curiosità morbosa dei media. Assolutamente, anche perché da un lato stiamo parlando di è una notizia, persone... perché sono due numeri uno, capisci? Fanno due numeri uno. Ma che faccia notizia non c'è dubbio, ed è per questo che al di là della rabbia degli ascoltatori che vorrebbero sempre sentir parlare solo integralisti di 4-4 due fuori gioco, arbitri Andrea, grazie a voi. Vai a tiki-takare nella redazione di Repubblica, tiki-takare termine onomatopeico, in questo caso guarda le parole che mi vengono, pardo. C'è la borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Per far piacere a Paolo, che scrive un messaggio, ma non parlate mai di calcio in questa trasmissione. Pardo, cosa ne pensi della posizione tattica di Gargano nella vittoria del Parma 1-0 sull'Udinese? Beh, Gargano è un buon incontrista, l'ha dimostrato con Mazzola. No, dai, veramente, come non parliamo di calcio? Non lo so, non so qual è il senso. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. 800 24 00 24, siete convocati ogni giorno con un tweet. Antonio, cosa vuole chiedere? Con un tweet non lo so, però a parole ti posso dire. Sì. Ma sembra solo a me che De Jong sia un po' controproducente per il Milan. A me sembra che ci dia il ritmo della nazionale cantante. Io spero che lo metta Etienne in fianco a Montolivo e De Jong si sieda, perché i numeri dicono che da quando lui è uscito l'anno scorso noi abbiamo avuto una risalita incredibile. Sì. Ti saluto, aspetto la risposta. Antonio, non so se l'anno scorso è replicabile, però io la penso un po' come te. Beh, lui si è fatto male, lo ricordiamo, a Torino, in Torino-Milan a dicembre, ma insomma... Dopo lì circostanze... Io penso che non ci sia una correlazione così, no, non c'è. Così netta. No, però io penso però che sicuramente, con tutto rispetto per De Jong, che è un buon mediano, se De Jong, come è successo nella prima parte della stagione, è stato uno dei meno peggio del Milan, questo racconta un po' le difficoltà della squadra, nel senso che è un giocatore al quale non è che puoi chiedere la qualità. E quindi sì, poi sono d'accordo sul fatto che deve essere considerato un mediano di questa squadra, un mediano che da solo ha un raggio, di passaggio di 10 invece, metri. Io ti dico che se giochi 4-2-3-1, paradossalmente un giocatore così ti può essere ancora più utile, perché puoi decidere di demandare tutta la fase offensiva al talento di quei quattro. È l'idea del 4-2 fantasia di Leonardo di qualche anno fa. Sì. Siccome c'è questo famoso discorso dell'equilibrio, il calcio deve essere equilibrio, è chiaro che se ho quattro giocatori, poi quello che vuole fare senza riuscirci troppo Benitez, se giochi con quattro giocatori di grande propensione offensiva, ti può anche bastare un centrocampo ruvido, certo, di mazzolatori. Ma quindi tu sei, a te piace questa idea del doppio mediano Essien e De Jong, come si legge a qualche parte, sarebbe l'intenzione di Seedorf? È un'idea che ci sta, perché è chiaro che se tu giochi con quattro giocatori offensivi hai bisogno di una grande diga protettiva. Sì. Essien De Jong potrebbe essere indicata da questo punto di vista. Montolivo è uno che in nazionale in passato ha fatto anche il finto trequartista, no? Cioè uno che potrebbe anche giocare nel 4-2-3-1 a supporto di una punta della punta centrale. Certo. Ma lì le soluzioni sono molte. La Roma di Spalletti, di Ranieri, nella grande crescita del 2010 aveva Pizarro, De Rossi come coppia centrale. Sì. Uno faceva più l'interditore e l'altro costruiva. Certo. Non mi fa impazzire De Jong, non voglio nemmeno a me, per questo che sembra il mare assoluto, ecco. No, nemmeno a me, però non, la mia idea non è molto distante da quella dell'ascoltatore. Comunque è uno che certamente non, al di là del recuperare molti palloni e del picchiare non poco, non dà grande ritmo quando riconquisti la palla, questo sì. Matteo, Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, sì, io non so se adesso mi attirerò le sue ire. Sì, però quasi di sicuro. Però in questo periodo mi sembra un po' di ricordare il periodo della prostituzione intellettuale di Mourinho. Sì. Perché? Perché? Perché purtroppo in altre squadre in periodo di crisi l'aiutino arriva sempre. L'Inter purtroppo, se avesse avuto quei punti di vantaggio, sarebbe ridosso delle squadre che lottano per la Champions, secondo me. Ah, quindi lei dice, allora, fuori dal tweet, fuori dal dialogo via Twitter, con i 140 caratteri, se l'Inter avesse avuto i rigori che meritava sarebbe da un'altra parte, è questo che vuole dire? No, se avesse avuto il giusto, perché appunto. Gol fuori gioco annullati, fuori gioco inesistenti. I rigorini vengono dati soltanto alla Juve. E poi, secondo me, vi lasci dire anche questo, sì. Quest'anno ci sono i mondiali. Secondo lei, qual è la squadra che ha più giocatori alla nazionale? La Juve arriverà spompata a questo fine campionato o arriverà con una vittoria abbastanza larga per poter mandare i giocatori abbastanza presto? Ma secondo me, Matteo, sono le solite polemiche da tifoso che però purtroppo ma guardi, ma io dico ci stanno, però mi dico una cosa, guardi, le chiedo per 8 secondi, non faccio al tifoso, l'Inter meriterebbe una classifica diversa e migliore rispetto a quella che ha sul piano del gioco? No, io ho soltanto detto che se no, l'Inter no. Vale la prima, no, io dico tutte le partite, sì, dico, no, ma io sono d'accordo. Io sono d'accordo, l'ho detto la settimana scorsa, lo ripeto oggi. Il rosso della Fiorentina, o sbaglio? Sei d'accordo con chi? No, io sono d'accordo che l'Inter ha qualche punto in meno. Certo. Non ero d'accordo con Mourinho ai tempi della prostituzione intellettuale, perché secondo me in quegli anni lì l'Inter era diventata in Italia la realtà di riferimento. Io non credo nei complotti, fino a prova contraria, poi quando ve li dimostrano bene. Io però credo chiaramente nel fatto che siamo tutti condizionati da chi abbiamo di fronte. Sì, ho capito, se tu dici... io ho Scarlett Johansson a cena oppure ho mia cugina, probabilmente sempre Scarlett Johansson è tua cugina. Io voglio conoscere tua cugina che paragoni sempre a Scarlett Johansson. No, è stupenda. Quindi, però voglio dire, non è, tra l'altro ne ho varie di cugine. Sono 21 cugine. No, a parte questo, è chiaro che ci può essere un condizionamento, fa parte della natura umana. Secondo bene, me negli anni di Mourinho, ascoltami, l'Inter... No, ma è questo che ti dico. Allora, se tu dici manca qualche punto, c'è stato l'Inter ha avuto sfiga con gli arbitri in questo fino a qui siamo d'accordo, ma sul piano del gioco, della qualità, di quello che ha espresso eccetera, no, l'Inter meriterebbe la classifica del Napoli, ti faccio per dire. Ma io ti dico per dirti che il Milan secondo me ha più prospettive dell'Inter di medio periodo, cioè fra le due quella che secondo me ha più qualità, più possibilità di risollevarsi è più il Milan dell'Inter. Detto questo, secondo me all'Inter qualche punto manca e siccome poi siamo uomini, è chiaro che vincere una partita col Chievo, tanto per essere chiari, col gol di Nagatomo 2-1, ti dà la possibilità di avere una settimana un po' più tranquilla, di non avere la contestazione alle porte sempre, cioè si innesca un meccanismo positivo che invece assolutamente non c'è stato. Oggi l'Inter ogni volta che scende in campo ha un Everest da scalare di natura psicologica, sicuro, e probabilmente con qualche sicuro. Punto in più il lavoro di Mazzarri sarebbe stato più semplice. Questo è sicuro. Questo poi è sicuro. Che la squadra stia deludendo di illusione di diludendo, è questo evidente, insomma, non ci sono discussioni. No, perché l'abbiamo detto molte volte, quando entri in questo loop un po' perverso, poi tutto diventa più difficile, giocare a San Siro diventa più difficile, le stelle ti remano contro, anche quando l'arbitro non c'entra nulla come ieri col Catania, le cose non vanno bene, eccetera, ti alleni peggio, hai più pressioni, tutto vale tutto. Giovanni Milano. Carlo, buongiorno, grazie per la convocazione. Ciao. Volevo dire che ieri ho visto una bella partita a Firenze. In Serie A ultimamente non è facile vedere due squadre che vogliono giocare a pallone. Volevo aggiungere un'altra cosa: per il derby di domenica a Genova, sull'orario delle 12:30, mi sembra che ci voglia un po' di rispetto per i tifosi, una città in generale. Insomma, perché 12:30... giorno che vedo magari un derby di Milano, un derby di Roma allo stesso orario, magari me ne faccio anche una ragione. Ma non... qualche dubbio quello di Roma non è mai stato no, 12 posso, e mezza, posso dire un po' sì. Di quello di Torino l'hanno fatto quest'anno alle 12:30, sì. Io ho pieno rispetto, spero che si trovi una soluzione, perché farò il derby, sono entusiasta, è una partita che mi gasa da morire e l'idea di viverla senza pubblico, col pubblico fuori, mi mette veramente una depressione cosmica. Il derby senza tifosi, il calcio senza tifosi non ha senso, il derby senza tifosi ha ancora meno senso del calcio senza tifosi, quindi è un abominio. Detto questo, so che c'è questa fiera di Sant'Agata, il problema ci sarebbe stato anche alle 15. Mi sembra che sia stato un clamoroso errore della Lega e del Comune. Bisognava giocare il giorno prima, punto. punto. Poi però voglio dire anche questa cosa: non sono le televisioni che vogliono questa cosa qui, e in ogni caso, se uno è un genovese fiero della sua partita e del suo derby, dovrebbe anche essere contento che questa partita sia visibile da parte di tutti. Le partite più viste, ragazzi, sono i posticipi e le partite staccate dalle altre, per ovvi motivi, perché se tu giochi alle 15, tutti quelli che vanno allo stadio in altri posti o che guardano altre partite non ti guardano. Se invece giochi in anticipo o in posticipo, attraverso la TV, che è meglio di niente, è chiaro che è meglio essere allo stadio, tutta Italia ti vede. Quindi secondo me per la Genova calcistica, una partita come Genova-Samp, è bello che sia in un orario dove possa essere vista, perché sicuro, è bella, è quanto sono belle le tifoserie, stadio pazzesco, cioè tutte cose meravigliose. Però per cui secondo me un vero genovese deve essere felice che la partita verrà vista da tante persone. Sì. Però 12:30 è un orario assurdo, c'è la fiera, tra l'altro da mezzanotte è bloccato tutto, no? Perché lì ci sono due quartieri, Marassi è al centro di questa fiera, e da mezzanotte dovrebbero chiudere le strade per consentire a tutti gli espositori di mettere solito grandissimo casino, assurda, solito grandissimo casino. Senti Pier, prima di salutarti e lasciarti tiki-takare lì alla redazione di Mediaset, hai visto il gol di Alessandro Martinelli? No. Valla a vedere su YouTube. Perché vado subito. No, perché poi c'è stata una disputa tra me e Franco Piantanida su, io ho detto gol alla UEA, lui dice ma UEA ne ha saltato di più. Valla a vedere. Ti dico la partita, Vicenza-Venezia, derby Veneto di Lega Pro, valla a vedere, domani mi dici com'è. Lo sto già vedendo. Com'è? Fammi la telecronaca. Non me l'ha ancora caricato. Dai, io, no. Allora, aspetta. No, ma ha caricato uno che va sul surf. Ah no, surf non c'entra. Alessandro Martinelli, Vicenza. Sul nostro Twitter c'è già Vicenza-Venezia, 2-1. Però questo è il gol del derby, tra l'altro. Derby, vantaggio del Venezia. Vicenza Venezia Highlights, 26esima giornata. January match day football pertain to the highlights. Ma come parla strano sto YouTube? Senti, va. Allora ce l'hai? Sì. Ce l'ho, però. Non va. Allora, aspetta un attimo, c'è il traffico. Giusto per vedere questo gol e farlo raccontare a te, perché merita, sul serio, mi dici cosa ne pensi, poi ti lascio andare a tiki-takare. Strade. A me non mi piace prostituzione intellettuale, non mi piace. Mi piace onestà intellettuale. Tutti convocati. Pier, sei riuscito a vedere sto gol? Sì, sto per commentarlo. Attenzione, palla che viene messa fuori all'area di rigore. Attenzione alla possibilità per la ripartenza del Venezia con Martinelli. Prova ad andare Martinelli, supera di nuovo da campo Martinelli, ancora Martinelli, tutto solo come Forrest Gump. Oddio, si è bloccato il computer. Martinelli supera il portiere, il sinistro Martinelli, un gran gol del Verona. Con me c'è Matteo Dotto. Matteo, Eccezionale Martinelli, meglio di UEA. Ho capito? Matteo Dotto, è quel Matteo Dotto lì, quello storico di controcampo, roba seria. Grande, come Matteo Dotto Parlocco. Bello . Sto gol, eh? Sì, bello, tutto dritto. Tutto dritto, penso, però. Certo, 80 certo. Metri di corsa, poi per la lucidità di saltare portiere, secondo me è un gran gol. Gol fantastico, giusto che venga celebrato, grazie per avermelo fatto vedere. Bellissimo, UEA secondo me era un filo più difficile. Però, grande Martinelli, cioè io dopo lo chiamo. Col menisco prima della metà campo, quindi grande rispetto. Poi lo chiamiamo, dopo le 15 abbiamo Martinelli, che lo facciamo raccontare a lui. Poi gli regaliamo questo audio di Pardo da cominciare a mettere in bacheca, solo 20 anni, proprietario della Sampdoria. Ciao Pier, buon tiki taka. Ciao. Marco Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io sono interista, innanzitutto si sgombriamo il campo da ogni dubbio. Allora, niente, vedo che, come lei diceva prima, non vedo prospettive rosee per l'Inter. Non so se lei o Edoardo dicessero. E il concetto è che purtroppo non c'è il playmaker, manca il playmaker. Quando la squadra sale dalla difesa, comincia l'azione, passa la zona della palla in orizzontale, i tre centrali, e non sanno mai che cosa fare, e spesso perdono anche il rimpallo e creano una situazione molto pericolosa. Se lei guarda le ultime 3-4 partite, molti gol sono nati da palle buttate in calcio d'angolo perché perdono. Ma la mia sensazione, Marco, è che manchi qualità tout court all'Inter, manca un playmaker, ma mancano tante altre cose. La crescita di Alvarez, che è stata evidente la prima parte della stagione, si è fermata e riusciva a dare un po' di qualità al centrocampo. Gli altri sono quelli che sono. Kovacic non si capisce bene se esploderà o non esploderà. nel complesso all'Inter manca totalmente qualità, ma a centrocampo, ma anche davanti. Molti chiedono, vabbè, adesso Vucinic sarà juventino, arriverà dalla Juventus, avrà 30 anni, guadagnerà molti soldi, però ci fosse stato un Vucinic nella partita di ieri, o ci fosse un Vucinic in quest'Inter, servirebbe e come. Senta, ma mi dica una cosa da interista, poi vi faccio sentire Fassone cosa ha detto. Cosa ne pensa? Abbiamo parlato di Twitter, ieri ce n'era uno scritto anche su un lenzuolo a San Siro. Sì, tre regole vista dettate dai tifosi dell'Inter: mai trattare con Rubentus e Bilan. 1. 2. Toir, metti subito un tuo uomo di fiducia. 3. Vecchia dirigenza, tutti subito a casa. Ormai i tifosi hanno capito che la politica societaria la fanno loro, perché loro hanno bloccato appunto questo scambio. Almeno questo è un programma di governo, no? Ma io penso che i tifosi debbano fare i tifosi e debbano questo lo penso anch'io. Questo lo penso anch'io. Però vede che non è così, niente, no? Niente di più. Niente. Ultima parola, perché dica. Io c'ho il pallino del playmaker. Ma mi dica un attimo, lei conosce bene direttamente tutti gli operatori di mercato. Gli dice da parte mia, com'è possibile che 2 anni fa si sono fatti scappare Verratti a 15 milioni? Cioè che PSG si è assicurato i prossimi 10 anni il miglior playmaker esistente nel calcio europeo a 15 milioni, allo stesso soldi che abbiamo speso per Belfodil. Ci rendiamo conto? Sì, allora, visto che molti degli suddetti operatori di mercato ci ascoltano, la domanda gliel'ha già fatta lei, poi, se vogliono, siamo qui, ci risponderanno. Grazie Marco, vi faccio sentire Fassone, poi vado a Genova, vado a Milano, 800240024, il vostro numero verde. Fassone. Giornata per ricucire i rapporti con la Juventus? Non ho idea, sono cose che valutano i presidenti tra di loro, non so a che punto siamo. Quanto feriscono queste critiche, essere sulle pagine dei giornali criticato dalla tifoseria, con delle critiche abbastanza pesanti? Dispiace molto, ma chi fa il mio mestiere, chi fa il dirigente in Italia nel calcio, deve sapere che queste cose ci sono. Bisogna avere le spalle larghe, credere nei progetti e portarle avanti fino in fondo. È aperta la trattativa per Vucinic con la Juve? Non so, di questo si sta occupando direttamente il presidente, parlerà lui con la Juventus. Cioè non viene lo scoramento di dire lascio, mi arrendo? No, ma non insistete su questo. Ciascuno di noi fa il suo lavoro. Ciao, arrivederci. Queste parole di Fassone questa mattina, dopo il vertice con Toir. Beh, curioso il fatto che la settimana scorsa Fassone si è assunto molte responsabilità dicendo ok, sono una società, ho mandato, abbiamo deciso questo, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi no, parla presidente, io non so niente, questo non lo so, quell'altro non lo so. Antonio Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono tifoso sampdoriano. Sì. E niente, io volevo, anzi, buongiorno, volevo chiederle cosa ne pensa del campionato della Sampdoria che sta facendo. Faticoso, e se vede, perché io vedo una squadra cambiata, sì, con l'arrivo di Mihajlovic, comunque una squadra che comunque fa fatica, nel senso si vede che manca qualcosa, manca una punta centrale, anche se c'è Derma. Vedo che sapere cosa ripensava lei. Ma io la penso esattamente come lei, dare qualche consiglio alla società. No, ma io la penso esattamente come lei, mi sembra che abbia dato una lettura perfetta della Sampdoria. Cioè Mihajlovic certamente ha cambiato qualcosa anche dal punto di vista emotivo, vedo una squadra più viva, più cattiva, più brillante, però la qualità è quella che è, e la Sampdoria, ma lo diciamo questo dall'inizio della stagione, avrebbe bisogno di qualcosa su quel che resta di questo gennaio di mercato, avrebbe bisogno certamente di rinforzi. Cioè è una squadra che starà lì a lottare fino all'ultimo secondo, per me, per una salvezza, molto in bilico, molto in discussione, perché ripeto, Gabbiadini eccellente giocatore, Eder sta facendo la sua miglior stagione in Serie A, però non è certo un giocatore che garantisce 15 gol, e la Sampdoria manca molto sul piano qualitativo, quantomeno per un campionato tranquillo. Renato Milano, poi ci fermiamo un attimo e poi continuiamo dopo GR. Dica Renato. Sì, buongiorno, io volevo dire, c'è un detto che dice mazza e panella fanno i figli a bella, panella senza mazza fanno i figli a cape cazza. Sì. Riguardo Balotelli, cioè dargli amore, io dico la dirigenza come il Milan a un giocatore che fa un gesto come quello che ha fatto lui ieri, non ci vuole una bella punizione esemplare, cioè per quello che ha fatto ieri Balotelli. aspetti, la radio via. Ci vuole una bella punizione esemplare per quello che ha fatto ieri Balotelli? Sì, sì, certamente, va una cosa da sciocco, da stupido, perché ti insegnano che ai tifosi non si risponde nonostante i molteplici insulti, eccetera, eccetera. Quindi sta provando a rigare dritto, il suo atteggiamento è migliore, con Seedorf va d'accordo, fa gol. Però l'occasione per stare buono con le mani, per mantenere i nervi a posto, non riesce mai a sfruttarla. Tweet di Marcello, nuova intromissione di Twitter nelle mosse della Juventus, oggi ha bloccato lo scambio a Elina Seredovi, l'area d'amico. Vabbè, Marcello, grazie del tweet, ci fermiamo per il GR e poi torniamo. Tutti convocati. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Si distende UEA! UEA! Vai! UEA! Palla che viene messa fuori dall'area di rigore, attenzione alla possibilità però di partenza del Venezia con Martinelli, prova ad andare Martinelli, supera di da campo Martinelli, ancora Martinelli, tutto solo come Forrest Gump, oddio si è bloccato il computer, Martinelli supera il portiere in sinistro, Martinelli, gran gol del Verona, con me c'è Matteo Dotto, Matteo. Eccezionale Martinelli, meglio di UEA. Alessandro Martinelli, quando UEA ha segnato quel gol avevi 3 anni. Ciao. Ciao, buongiorno. Ti è piaciuto? Avevo fatto fare la telecronaca a Pardo. Sì, sì. In diretta gli ho detto, apri Twitter, guarda sto gol, fammi la telecronaca. Senti, ma tu quando eri al campetto non hai mai detto, mentre giocavi con gli amici, vabbè, io faccio UEA? No, ma non credo proprio che sia la stessa cosa. Vedi, sconfitta nel derby con il Vicenza, derby aperto, questo tuo gol, siete andati in vantaggio, voi avete perso, me lo racconti tu quel gol lì, che sei partito dalla tua area? Sì, ho vinto quel rimpallo al limite dell'area, poi mi sono riuscito a allungarmela e dopodiché ho visto solo il portiere e dato che Non mi capitano spesso mai queste occasioni, non sapevo cosa fare, per fortuna il portiere è uscito, me la sono riuscito a spostare a sinistro e per fortuna è entrata. L'hai sdraiato e l'hai messa dentro, non è che hai pensato come Totti, mo o salto e vado in porta col pallone, no. Hai fatto questo pensiero. Svizzero, no. Di Mendrisio, 20 anni, under 21 Svizzera, cartellino tuo della Sampdoria, ti ha chiamato Mihajlovic? Hai sentito Mihajlovic di recente? No. Senti, ma dimmi una cosa di questo, del tuo presidente attuale, russo, presidente del Venezia, Yuri Korablin, è un tipo alla Abramovic o alla Tuir che dice, oh, prima vedere Cammello puoi dare soldi? Ma noi non è che lo vediamo molto spesso, lo vediamo magari di sfuggita. Poi lui non parla l'italiano, quindi non è di molte parole. Non è di molte parole. Però credo che stia facendo un buon lavoro. Sì, sta facendo un buon lavoro, poi state facendo un buon campionato con Del Canto e tu invece dove vuoi arrivare? Ma da Petkovic. Tanto per cominciare. Cerco ogni giorno di migliorare per arrivare più in alto possibile, non mi pongo limiti. Spero da un giorno di poter arrivare magari a giocare la Serie A. Con la Sampa? Sei tifoso sampdoriano? Ma sono interista, però dato che ho fatto tutto il giovanile alla Samp ci tengo molto. Ah, sei interista, brutto momento, eh? Non un bellissimo momento. non proprio bello. Allora, questa la dico a te, Alessandro Martinelli, la dico a tutti gli ascoltatori che poi avranno modo, ma penso anche domani, di commentare queste parole di Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, come ben sapete, che ha appena detto: c'è chi ha tante cose da dire e poi qui non dice niente, c'è chi non conosce bene alcune norme, rischia di creare problemi agli arbitri e fare danni in campo e alla propria società, ha detto Nicchi dopo un incontro con capitani, allenatori e dirigenti, cui non ha partecipato l'allenatore dell'Inter Walter Mazzarri, ma il suo vice Nicola Frustalupi. A chi mi riferisco? Si autodomanda Nicchi. A quelli che erano assenti. A meno che non sei assente giustificato, vuol dire che puntini in sospensione. Allora, sei appassionato di qualche altro sport, Alessandro Martinelli? Così impariamo a conoscerti. Il gol che abbiamo visto ieri è straordinario. Io l'ho visto stamattina su Sky e ho detto: questo, io devo parlare con sto ragazzo, devo farmi raccontare sto gol. No, ma seguo molto il tennis, anche lo sci, dato che sono in Svizzera. Ah sì? Allora senti questa, sentiamo insieme questa. Last year I had a crazy match. I lost it. I was crying a lot after the match. But in 1 year a lot happened, and I right now still don't know if I'm dreaming or not. But we'll see tomorrow morning. Wawrinka che vince gli Australian Open. Tuo connazionale, mica male, Alessandro. Sì, ieri non ho potuto seguire la partita perché avevamo la partita, però visto che ha vinto sono molto felice. Sì, ma secondo te Sua Maestà Roger è sulla via del tramonto? L'anno scorso, la settimana scorsa un po' litigato con gli ascoltatori, perché secondo me, insomma, Sua Maestà Roger è ampiamente sul viale del tramonto. Wawrinka può essere quello nuovo, l'outsider, l'underdog, quello che vuoi, ma tu cosa ne pensi? Federer ormai magari stanno facendo un po' sentire gli anni, però credo che Roger, Federer sia inarrivabile, però non si sa mai. E sulle Olimpiadi invernali chi pronostichi dei tuoi? Io vedo Lara Good, e anche lei è ticinese, spero che possa vincere un oro. Possa vincere un oro. E il Venezia invece cosa vince? In Venezia, sì. Ma noi dobbiamo pensare a ogni partita, cercare di vincerne il più possibile per arrivare in alto. Per arrivare in alto e poi viaggio premio a Mosca, tutti quanti, vengo anch'io. facciamo pagare il signor Korablin. Se il Venezia vince il campionato, lo dico pubblicamente, Korablin offre a tutti quanti, me compreso, viaggio premio a Mosca con annessi e connessi. Alessandro, grazie, complimenti ancora per quel gol, bellissimo. Prego, grazie. Ciao Ale. Maurizio Torino, buongiorno. Sì, ciao caro, grazie per la convocazione. Grazie a te. Volevo chiederti due cose sul Torino, perché da tifoso mi gira tutta la testa questi periodi. Allora, Maurizio, ti posso chiedere un favore? Abbassami la radio, anzi spegnila per un momento. Tutta. Perfetto, se no. Volevo chiederti del Torino, di cosa ne pensi, come leggo che posso arrivare anche in Europa con la squadra che sarebbe già bel traguardo, visto tutti gli anni di problemare che abbiamo. Bel traguardo. Un traguardo straordinario. Esatto. Ti ricorderai a inizio stagione tutto il casino che è venuto fuori quando i tuoi dirigenti volevano prendere Maresca, altro caso di una tifoseria che si è opposta e ha avuto ragione, cioè nei fatti, secondo me hanno sempre torto le società che si fanno condizionare in maniera così esplicita e pesante dai tifosi. Però all'inizio della stagione tutti i tifosi del Toro erano estremamente pessimisti su questa squadra. Vedendo gli ultimi anni, non è che comunque vedo che quest'anno, insomma, abbiamo visto diverse partite, ma vedo che c'erano molto più grinta, insomma, di più convinti, no? Cioè, proprio vedi, insomma, erano anni che si doveva giocare il Torino così. Sono d'accordo. Un'altra cosa, se, dato che, da quello che ho capito, siamo tutti tifosi del mitico Vale. Sì. volevo dire che tutti parlano, sento adesso lì tre spagnoli, però fra tutti e tre, io prima di paragonarlo vale a parte le vittorie mondiali, ma vorrei vedere uno di questi tre qua quando arriveranno come lui scende dalla moto stra vincente come la Honda, andare su una Yamaha che si beccava sui 35, 40, 50 secondi a fine Gran Premio e arrivare al primo anno e fare quello che ha fatto. Beh, ma sai che per me è stato. Sai che sono tifoso anch'io, quindi che vuoi che ti dica? Sono tifoso anch'io, però. Qua continuano a dire, ma ragazzi, ma cioè, questi qua non fosse. C'era Schumacher della moto, penso che lui anche la scelta sì. Che ha fatto è di andare su una moto vincente. Sì. A una moto che si ricordi, non è che c'è ho capito, di fare, ma, riparo, piace, certo, Maurizio, ma infatti nessuno dice che i tre spagnoli. Beh, ne metto due perché Pedrosa è il perdente di turno che sta con gli altri due per prenderle. Però adesso vediamo che tipo di carriera possono fare. Certamente nessuno dimentica quello che fece Valentino Rossi, cioè salendo su una moto che fino allora non ne prendeva una come la Yamaha e facendola diventare immediatamente una moto vincente. Nessuno sta a mettere in discussione nemmeno i detrattori di Valentino Rossi, tra poco arrivano i messaggi di quelli l'evasore, tutte queste storie qui. Nemmeno i detrattori di Valentino Rossi possono mettere in discussione ciò che ha fatto. Io mi permetto di mettere in discussione da tifoso il presente, perché non so fino a che punto Valentino possa ancora competere con Marquez e Lorenzo in questo momento, ma non si può discutere il passato, non lo faccio io, non lo fai neanche tu. Quanto al Toro, mi sembra una squadra in missione, vale per il Toro. Guarda, il discorso quasi opposto rispetto all'Inter, cioè se l'Inter è entrato in questo loop perverso per cui non gli davano i rigori, gioca male, gioca sempre peggio, sente la pressione del pubblico, il Torino è all'opposto, cioè è una squadra che sta bene e cui le cose girano particolarmente bene, come è successo ieri con l'Atalanta, perché alla fine qualche volta la fortuna aiuta anche chi se lo merita. Vincenzo, provincia di Genova, buongiorno. Ciao, buongiorno. Da Liguria però napoletano 100%, una domanda secca. Sì. A tuo avviso, la rosa del Napoli è una rosa di qualità o no? Nel senso che ha più meriti Benitez nell'aver tirato fuori da questa rosa comunque dei risultati accettabili, oppure il contrario? Cioè Benitez, magari un altro allenatore con questa rosa poteva fare meglio? Ma da questa rosa ha tirato fuori tantissime cose anche Mazzarri, non dimentichiamolo. È chiaro che questa squadra è stata migliorata rispetto a quella che aveva a disposizione Mazzarri, perché è così, è andato via Cavani, ma è arrivato Higuain, è vero che è andato via Lavezzi, è vero che la squadra è stata un po' smontata nei suoi pezzi pregiati, però questa squadra mi sembra un po' più forte, un po' più profonda rispetto a quella che aveva a disposizione Mazzarri. Io credo che tutto sommato il Napoli stia facendo il campionato che può fare, che deve fare. Manca forse qualche punto alla sua classifica, perché può competere per il secondo posto, potrebbe, dovrebbe competere per il secondo posto con la Roma. Io continuo a pensare che Benitez sia l'allenatore corretto per questo tipo di squadra e anche per quello che è l'idea del presidente, che vuole una squadra abbastanza cinematografica, quindi abbastanza attrazione anteriore. Di Nicky parliamo domani perché non c'è tempo, però io ho come la sensazione che queste parole del presidente dell'AIA scateneranno un bel casino. Roberto Scaltritti in regia, Franco Pentanini autore di questo programma, ci sentiamo domani dopo il giro delle due, ciao. Hai una luce bellissima nella tua voce, tu hai fatto sposato tutto tuo cuore, è venuto fuori, mi hai fatto sentire i farfalle. No, sono bravo, veramente. Io dico sì.